in primo piano. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Dico subito che oggi fare la rassegna stampa è davvero un piacere. Spesso i principali quotidiani almeno vengono accusati di fare delle prime pagine più o meno simili. Bene, oggi certamente non è così. Le alternative per i lettori sono assicurate. Ogni quotidiano dà un suo taglio, ogni quotidiano dà una sua priorità. Ancora una volta, Libero, diretto da Vittorio Feltri, a Libero va il primato della originalità. È una copertina che farà discutere, è una copertina di sfida allo stile che si potrebbe definire politicamente corretto. Bene, tenetevi forte, oggi in copertina di Libero c'è Berlusconi abbronzato come Obama. L'occhiello è sempre colpa di Berlusconi, il titolo è Lo fanno nero. Anzi, lo hanno fatto nero. Per la verità, l'idea di mettere, avete capito bene, un Silvio Berlusconi abbronzato con i capelli crespi in copertina non è in realtà di Libero, è di Flash Art, come spiega nell'editoriale Gianluigi Paragone, un editoriale con stile scatenato. Flash Art è la rivista leader nel settore dell'arte contemporanea che ha dedicato a Silvio Berlusconi in versione abbronzata la copertina. Lo facciamo anche noi, scrive Gianluigi Paragone, sono anni che la sinistra lo vorrebbe vedere così e noi così glielo facciamo vedere. Care compagne e compagni, ecco a voi Silvio Nero. E poi spiega, a sentire quelli della sinistra del sindacato è sempre colpa di Berlusconi, nevica è colpa di Silvio, c'è la crisi, per Veltroni le risposte del Premier sono imbarazzanti, il futuro delle famiglie italiane è nero, sostengono la sinistra, bene, la colpa è di Berlusconi che si occupa d'altro e via dicendo in un crescendo che si potrebbe definire senza forzature rossiniano. Se tre pirla senza testa, senza cultura e soprattutto senza cervello si divertono a dar fuoco a un povero diavolo straniero, si domanda Paragone, di chi potrà mai essere la colpa? Di Berlusconi, risponde, del suo governo e degli amici leghista che frequenta, e via a seguire con altre domande sulla stessa linea, tipo stuprano le ragazze e così via. Per tutti la colpa è di Berlusconi, per questo lo fanno nero, spiega Paragone. Con Repubblica invece si entra un po', si ritorna nell'ordinario, ma anche in questo caso la scelta di Repubblica è di dare un taglio diverso dagli altri quotidiani, tranne che dell'Avvenire. Entrambi titolano il servizio di apertura della copertina all'ultimo viaggio di Eluana, un viaggio che è continuato nella notte, tanto che è notizia di poco fa che Eluana ormai è arrivata a Udine, dove con ogni probabilità morirà. Spiega Repubblica, il cardinale Barragan, che è il ministro della salute della Santa Sede, tenta un'ultima mossa per fermare quella che definisce la mano assassina. Al capezzale di Eluana 14 persone, le regole per l'ultimo respiro, spiega Repubblica. L'Avvenire contrasta con questo avvenimento con ben 4 pagine dedicate al tema. E definisce mossa shock del padre la scelta di trasferire Eluana dalla clinica di Lecco a quella di Udine. Nella notte, a sorpresa, procedura di trasferimento in Friuli, chiosa l'Avvenire, ma la regione, l'atto del ministro Sacconi vale anche per la Quiete e quindi non è ancora detta l'ultima parola. Il Sole 24 Ore punta invece su una notizia di economia, l'apertura è stipendi cresciuti del 3,5%. Nel 2008 i salari degli italiani, spiega il Sole 24 Ore, sono cresciuti del 3,5% rispetto ad un'inflazione che si è fermata al 3,3%. Quindi, per una volta, grazie all'effetto dei rinnovi contrattuali, i salari sono cresciuti più del costo della vita. Le cifre, i numeri sono dell'Istat. Si tratta di un aumento record dal 1997. La situazione economica, la difficile situazione economica, tiene banco anche nella copertina della stampa. Crolla il mercato dell'auto, titola il quotidiano di Torino. A gennaio calano di un terzo le immatricolazioni. I concessionari dicono nel nostro settore rischiano in 100.000. Proprio sulla situazione difficile dei concessionari interviene il Sole 24 Ore in un altro articolo a pagina che è l'apertura dell'economia e imprese, la sezione del giornale dedicata all'industria. Il titolo è: i concessionari fanno il pieno di debiti. A fine 2008 oltre metà dei concessionari ha peggiorato la posizione finanziaria. L'allarme, spiega la loro associazione di categoria, è sul momento difficilissimo per tutti gli operatori del mondo automobilistico. Ma dire industria automobilistica in Italia significa dire Fiat. E vi segnalo un articolo del Riformista, è in prima pagina, richiamato in prima pagina, firmato da Marco Ferrante, ex giornalista del Foglio, ed è davvero interessante. Soprattutto pone la domanda che tutti si pongono: la Fiat ha preso o ha più avuto dallo Stato? Per almeno 80 anni, scrive Ferrante, la Fiat ha esercitato un ruolo egemone sul capitalismo italiano, sul nostro sistema industriale e sulle politiche di sviluppo del sistema stesso. Adesso è il momento della verità. In proposito, lo scontro di questi giorni, scrive ancora Ferrante, ha due simboli: Roberto Calderoli, leader della Lega Nord, contro Matteo Colaninno del Partito Democratico, nonché figlio di Roberto Colaninno, numero uno della CAI. Il loro diverso giudizio nasce da una analisi diversa, da una risposta diversa alla domanda di cui sopra, e cioè: la Fiat ha dato di più o ha avuto di più dallo Stato? Nell'articolo di Ferrante anche qualche numero. In pratica, secondo un dossier che viene citato e che viene detto circola anche al Ministero dell'Industria, negli ultimi 10 anni la Fiat ha avuto meno di quanto ha dato. Più esattamente, ha ottenuto circa 1,9 miliardi di euro contro i 2,9 miliardi di euro dati per tasse e via dicendo. La verità, conclude Ferrante, è che in questi 5 anni dell'azienda, guidata da un manager cresciuto in Canada come Sergio Marchionne, l'amministratore delegato, non è stata cancellata la diffidenza di un pezzo del paese e del suo ceto politico nei confronti della sua principale azienda manifatturiera. Non è stata riconosciuta la storia della Fiat. Anche questo lavoro di persuasione culturale, conclude Ferrante, deve fare parte dei compiti di una grande impresa. Vedremo come finirà. Certamente un momento difficile, e lo conferma l'apertura del Corriere della Sera. Aperte virgolette, fino a 80 miliardi contro la crisi, chiuse virgolette. È la frase pronunciata ieri da Berlusconi, è la sintesi delle dichiarazioni pronunciate ieri da Berlusconi. In 3 anni la metà di questa somma, ha spiegato Berlusconi, arriverà dai fondi europei. Sempre il Premier ha poi annunciato misure per il credito al consumo. Un articolo di Sergio Rizzo racconta invece il retroscena di queste dichiarazioni di Berlusconi. Gli incentivi alla filiera dell'auto e quella mossa, scrive e spiega Sergio Rizzo, per convincere la Lega Nord, che di fondi alla Fiat proprio non voleva sentir parlare. Bene, chiudo questa prima parte della rassegna stampa sottolineando invece l'apertura del giorno, che dà la priorità alla vicenda che vede contrapposta in Gran Bretagna i lavoratori italiani a quelli inglesi. È una fotografia a tutta pagina, una bella fotografia con un operaio inglese sotto la neve che mostra un cartello anti-lavoratori italiani. Precedenza ai lavoratori inglesi, è scritto nel cartello. Il Sole 24 Ore titola: Gran Bretagna, la protesta non si ferma, e cita le dichiarazioni del premier inglese Gordon Brown, che critica le agitazioni, cercando però di non perdere consensi. In Inghilterra, scrive Repubblica, dilaga la protesta e cita una frase che è un po' la bandiera della lotta dei lavoratori inglesi: stiamo lottando per i nostri figli. Sugli scioperi anti-italiani in pieno svolgimento in Gran Bretagna c'è un'interessante intervista che vi segnalo a pagina 5 del Corriere della Sera. È un'intervista a Giorgio Cremaschi, leader della sinistra FIOM, il sindacato dei metalmeccanici iscritti alla CGIL. Il servizio è intitolato «Quel sindacato difende i lavoratori», e Cremaschi parla del sindacato inglese, guerra dei poveri voluta da Bruxelles. Dice Cremaschi, bisogna capire tutti i motivi della protesta. Quello che sta avvenendo in Gran Bretagna è il frutto ultimo della globalizzazione, una guerra tra poveri in un contesto di grave crisi economica. Voglio dire, spiega Cremaschi, che se gli operai italiani venissero pagati di meno rispetto a quelli inglesi o avessero condizioni contrattuali peggiori, sarebbe giusta la lotta dei lavoratori inglesi, anche se sono consapevole che sicuramente sotto la protesta ci sono ragioni diverse tra loro. Certo, commenta Cremaschi, se operai altamente specializzati come quelli che lavorano alle piattaforme petrolifere si fanno tra loro la guerra, allora significa che lì stanno veramente messi male, che la crisi è arrivata anche in alto. È la conseguenza di un processo di deindustrializzazione che nel Regno Unito va avanti da molti anni. Quelle scelte, aggiungo io, per cui è stata tanto celebrata in passato la Thatcher e il suo governo. Il giornale punta invece la carta migliore per la sua prima pagina sulle vicende di cronaca che hanno visto bruciare il barbone indiano. Troppi delinquenti liberi, titola a tutta pagina il giornale, ma chi brucia un barbone esce di cella dopo 2 mesi. A Rimini in novembre un episodio identico a quello di Nettuno, ricorda il giornale. Bene, i colpevoli sono già fuori. Poi il giornale cita una dichiarazione di Alemanno, un'esclusiva per il giornale. Leggi più dure, chiede Alemanno, il sindaco di Roma di Alleanza Nazionale. E Maroni sui clandestini dice contrastarli con cattiveria. Ecco, proprio questa frase di Maroni è la cartina tornasole per vedere come giornali di destra e dello schieramento opposto possono affrontare in modo opposto lo stesso argomento. La Padania, la voce della Lega Nord, dice Maroni: per contrastare i clandestini non bisogna essere buonisti ma cattivi, per affermare il rigore della legge, e lo dice e lo titola con tono fiero. Al contrario, l'Unità e anche Liberazione mettono in contrasto, in contrapposizione, le dichiarazioni di Maroni, definendo nel caso dell'Unità Maroni shock le sue dichiarazioni, con l'allarme di Napolitano. Dice il Presidente della Repubblica: ci sono troppi episodi raccapriccianti di razzismo, è una tendenza diffusa che va fermata subito. L'Unità lo ricorda e lo ricorda anche Liberazione. Al Manifesto va invece la palma, ancora una volta, del titolo più originale, Terra di Nettuno, titola l'inchiesta sui fatti avvenuti nel Lazio. Anche il Manifesto dedica la prima pagina alle dichiarazioni del ministro Maroni e alla Lega che, secondo il Manifesto, coglie l'occasione per rilanciare la xenofobia che 3 annoiati ragazzini di Nettuno hanno tradotto in tentato omicidio di uno straniero povero. Esattamente il contrario della versione dell'interpretazione dei fatti data ieri dal ministro Maroni. La Gazzetta dello Sport ancora una volta accende l'entusiasmo dei milanisti. Già ieri ho dichiarato il mio conflitto di interessi come tifoso del Milan e coglio l'occasione per ribadirlo. Certo, sono giorni per i milanisti entusiasmanti. Ieri il mercato si è chiuso con un flop dell'Inter a proposito di Quaresma, il centrocampista che calcola il Corriere della Sera, è costato 30 milioni di euro e ha giocato per 1.075 minuti. Poi è stato scelto di cederlo al Chelsea. Titola il Corriere della Sera: sopravvalutato non solo economicamente. Doveva essere l'uomo in più di Mourinho, ma le aspettative enormi su di lui hanno finito per schiacciarlo. E via un'intera pagina dedicata proprio al flop di Quaresma. Mentre la Gazzetta dello Sport annuncia una dichiarazione contenuta in un'intervista a Galliani, l'amministratore delegato del Milan. Il titolo a tutta pagina, a tutta copertina è «Beckham vuole restare». Il Milan lavora per tenerlo, annuncia Galliani, e credo piacerebbe anche a lui, ma non è facile. Poi aggiunge: il secondo posto in campionato non mi basta. Bene, la parte finanza e mercati del Sole 24 Ore sottolinea invece una notizia importante che arriva dall'antitrust e titola «Antitrust all'attacco delle banche». L'authority dice: prima degli aiuti di Stato occorre una riforma profonda della governance. L'occhiello dell'articolo pubblicato da Finanza e Mercati del Sole 24 Ore è emblematico. Segnalazione di Catricalà a Parlamento, Banca d'Italia e Consob per chiedere nuove norme su trasparenza e conflitti di interesse. Insomma, dopo il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che nelle settimane scorse ha avuto parole pesanti per i banchieri italiani, ora tocca all'antitrust, che scrive: sono inevitabili e urgenti interventi di regolazione sulla governance di banche e assicurazioni, cioè sul governo di esse. Il monito proviene dall'antitrust, scrive il Sole 24 Ore, ed è contenuto in una segnalazione inviata ieri a Parlamento, Presidenza del Consiglio, Banca d'Italia e Consob. Insomma, tempi duri per i banchieri italiani, ma per la verità tempi duri anche per quelli spagnoli. Sempre il Sole 24 Ore, a lato di questo servizio sull'antitrust che va all'attacco delle banche, pubblica una foto di Zapatero annuncia che ieri Zapatero ha incontrato i grandi banchieri spagnoli, e anche banche come il Banco di Bilbao e Santander se la passano davvero male e forse rischiano grosso per la situazione pesantemente negativa dell'economia spagnola. In rapido successione altre segnalazioni da altri giornali. La Stampa, con queste sue pagine sempre davvero originali, questa volta ne dedica una all'ultimo giallo della signora dei libri. La signora dei libri è Romilda Bollati, che è pronta a vendere. La casa editrice si chiama Bollati Boringhieri e Carlo Feltrinelli dice: sono pronta a comprarla. Sempre la Stampa dedica una pagina alla Daniela Martani, la hostess che ha annunciato ieri sera al Grande Fratello di dire addio alla trasmissione perché ha spiegato: non voglio restare disoccupata. Poi su Repubblica il titolo più significativo, che riguarda Valentino, sfida anche la crisi, lo ha fatto ieri annunciando il nuovo modello della Yamaha. Una pagina del Corriere della Sera annuncia che oggi è il giorno cruciale per la legge in aula sulla soglia minima per essere eletti alle europee. Oggi l'esame alla Camera, scrive il Corriere, emendamenti e voto segreto, i rischi per l'accordo sulla soglia del 4%. Chiudo con una segnalazione del Sole 24 Ore ancora, pagina 8, nella parte dedicata all'informazione internazionale, un titolo che fa riflettere sulle conseguenze davvero drammatiche della crisi anche nell'Estremo Oriente. Cina, 20 milioni via dalle città. Il 15% degli emigrati dalle campagne torna a casa dopo aver perso il lavoro. Per ora sono 20 milioni, ma l'agenzia governativa stima che il numero dei disoccupati nelle periferie del paese potrebbe salire a 26 milioni. Sono numeri davvero drammatici e forse giustificano o spiegano un episodio avvenuto ieri a Cambridge di cui dà conto la stampa, pagina 16, una scarpa contro Wen, il premier cinese sfiorato durante una conferenza. Il lanciatore dice: vergogna, sei un tiranno. E forse questa crisi è resa possibile dalla grande difficoltà in cui per una volta si trova anche l'economia cinese, anche se, è bene ricordarlo, la crisi per i cinesi significa che durante il 2009 cresceranno soltanto dell'8-9%. Beati loro. Bene, a questo punto si conclude qui la rassegna stampa di oggi. L'appuntamento è per domani, sempre alle 7:30.